alla Maia. Chi c'è qua? Luca, sei tu? No, non è. Eugenio, sei tu? No. State parlando in due. Uno è Eugenio da Pro Torres, chi è l'altro? Io, ah, ciao Lucarie, ho acceso in questo istante. Ho visto che c'era il bianco, nessuno parlava. E poi cercherò di entrare. Adesso mi sto organizzando in cucina lavando pentole. E allora Eugenio il genio. Oggi hai il segnale normale, stai usando l'apparato normale. Ah, e allora perché? Aspetta, cosa ho toccato qua? Ah, mi c'era abbassato la refeghina appena. Vediamo il segnale. Sì, Santiago 8, modulato 8 pieno. 8 e un quarto potrei dire, dai. E allora Luca. Allora, la mia intenzione è aiutare Gianni a disfarsi di quell'antenna, no? Però non avevo capito se va portata da te o se va portata da Claudio. Perché ieri ho sentito di sfuggita a Claudio che ha detto che è in quarantena. Luca! No, l'ha detto scherzando, Claudio. Luca non risponde, vabbè, niente da fare. Dai Eugenio, faccio questa roba in cucina. Più tardi entrerà sicuramente qualcuno, dai. Già sentiamo. Avete parlato in due, vai Luca. No, diciamo, ma questa antenna dove andrebbe portata? Da te o da Claudio? Niente, non ci capiamo oggi, dai. Vabbè. Ciao a tutti, vado in cucina a ziraccare, ciao. Circa voi a Claudio e tu. Ciao Claudio, no, con Luca non ci capiamo. Ho detto questa antenna deve andare da te o da, perché io avevo dato la disponibilità, perché a Gianni gli stanno rompendo le palle quelli del palazzo di levare quella roba lì. Tanto se serve una macchina già lo sapete. Allora, visto che considerato io volevo costruire quella più leggera, mi sa che me la porto via. Ma se parlate in sette non si capisce niente. Allora Luca, siccome io non posso uscire e ho altre cose, sono impegnatissimo in queste cose eccetera, ho già detto che è un controsenso, io vado lì, prenda quella roba, la porti qui, da qui devi andare lì, prendete una macchina e te la porti a casa tua, poi lì si fa quello che si deve fare. Io non posso, non ne ho tempo in questo periodo di andare da Gianni e poi soprattutto in questo momento io non vado a casa di nessuno con questi problemi che ci sono. Quindi se quell'antenna dovete spostare da lì, quel piantone, quell'antenna con i radiali, si prende e si porta a casa tua, capito Luca? Veramente in garage da te, fai quello che ti piace, è un controsenso portarla qui e poi riportarla lì. Vabbè dai Marco, io è solo che ho un casino mio Marco, non è che può uscire così, gli avessi riuscito per un motivo giusto, Gianni dice vuoi aspettare un po', perché c'ho questo casino di non si può uscire, io sarei sentito, non è che può uscire perché devi uscire, no, assolutamente, per un motivo valido. Vabbè, adesso non siamo ancora al regime, consigliano di non uscire e io posso trovare la scusa e devo portare medicina a Gianni, avanza, ha finito il buffet, gli devo portare il buffet, non mi fitta sciame, tanto già ho tutte le protezioni, mi sono messo anche un profilattico in testa, capo. Dai, non è così il discorso, Marco. Comunque, se la vuoi portare, c'è la vostra cortesia. Luca, tieni conto del piantone che è a casa di Gianni, è quello che non funziona, hai capito? Il piantone che funziona ce l'ho io, è da boccolare i radiali prima di montarla, se no ne cade tutto. Infatti mettere il piantone buono, non il piantone che non serve. Cosa vuoi che ti dica io? Il piantone che è a casa di Gianni, come ben sai, perché eravamo assieme, è quello che non funziona, quello che io devo prendere, portarmelo via e metterlo a posto. Il piantone che funziona ce l'ho già io, e e l'altro degli resti dell'antenna che vanno portati via da casa di Gianni, ok? Però, esatto, non è che ci devo pensare a fare tutto io o Luca, che qualcuno si muova, la porti via la roba da lì, e cioè, a me pare io, di inizio di mio fare giù vatto, eh. È 40 anni che sistema antenne a futidine, non ho sbagliato niente, ti ho detto che si è staccato il filo che avevo saldato all'interno, si è staccato quel filo, perché l'ho provata col tester, non ho sbagliato nessun avvolgimento, non c'era sbagliare l'avvolgimento, devi fare lo stesso che c'era prima, e lo stesso che c'era prima è né più né meno. Cazzo, avevo qua, capitolo, comunque devi portare via i pezzi dell'antenna e i radiali che sono quelli miei, quelli in fibra, ok? Quelli in fibra, ci sono i radiali. È lo stilo di Gianni, lo stilo di Gianni. Il piantone è quello, me lo dovete restituire a me e io vi devo dare l'altro, quello buono non ce la fare niente, la puoi montare anche senza radiali l'antenna. E ne metti due dentro con del silicone, del mastice, delle mille chiodi, glieli infili dentro e basta, non c'è da fare niente, hai capito? Se la vuoi piazzare subito. Io non mi posso muovere, non ho tempo e non ho neanche macchina. E poi in questo contesto non si può andare a casa degli altri perché io non vado a casa di nessuno e non faccio niente. Il piantone buono ce l'ho io, quando vuoi vieni e te lo prendi, Luca. È un metro di roba, te lo metti nel cofano e te lo porti via. E poi vi arrangiate, non so cosa dirvi. Lì c'è Eugenio che chiama disperatamente. Siamo arrivati, no? Si hanno fretta, che corrano, cazzo, non ho compreso. Io capisco che Gianni è possibilitato a muoversi a fare, bastava andare uno lì, mettere una scatola e portarla via da lì, cioè non ci vuole niente. E poi si fa con calma, adesso non si può fare niente perché non vado a casa di nessuno. Già sono in quarantena con lavoro, immagino già di due se me ne vado a casa degli altri. Non posso spostarmi io. Assolutamente, sono già autocertificato io, tutti gli spostamenti li devo dichiarare, quindi non posso spostarmi da nessuna parte. Ok, ciao Eugenio, se parli sopra assieme a Luca non ti capisco né a te né a Luca perché avete lo stesso segnale. E a Luca non lo senti perché non arriva lì da te, però qua arriva Santiago 9 e tu arrivi Santiago 9, quindi se parlate assieme non capisco un cacchio. Capito Lugarie, io non ho problemi, non ho nessun problema, il piantone buono da mettere solo i radiali, pronto, ce l'ho io a casa, perché devo fare quella modifica dei radiali, ma siccome tempo non ne ho avuto per niente, e poi adesso in questo periodo non posso far nulla perché non puoi uscire a prendere pezzi eccetera, quindi è rimasto sui mansarda, ma ce l'ho io, quello vecchio è da Gianni. Se tu intanto ti porti via quello che ti serve, ok, e il piantone magari lo metti in magazzino lì da te, no? E poi magari io passo e me lo prendo, quello lo metto a posto, però intanto tu portati via tutto il centrale che è già smontato, già l'hai visto, e i radiali, e io ti do il piantone e vediamo cosa riusciamo a fare, però lui in questo momento non possiamo fare comunella, hai compreso? Non possiamo fare queste cose. Io ho l'antenna che me ne sta scendendo a pezzi e non posso chiamare nessuno perché non possiamo fare niente. Lo so, ci sta, purtroppo siamo nato male, dai, diciamo così, noi siamo nato male, perché alla fine appena si calma un po' il tutto, speriamo bene, perché quando ho detto devo rimanere a casa per far sì che la cosa si divulga, perché c'è molta gente presa a casa, perché stiamo in giro, mi ammalo io, c'è chiunque, tutti i bisogni come si può chiamare. Questo è il mio sistema a casa, ma no, si esce per fare la spesa, per le cose urgenti, ecco. Infatti io per esempio sono da Marina, adesso a quanto mi hanno detto che devo stare nel mio domicilio, oppure stare qua, ma io non cazzo andare anche a casa a fare la cultura a mamma. Devo fare questa autocertificazione, un casino. No, aspettate, però l'autocertificazione per uscire dal comune di residenza, cioè per andare Sassari, Polo Torre, Sassari, Alghero, ma all'interno della città non c'è certificazione, assolutamente, ancora no, però credo che stiano per approvarla. E poi vabbè, io stamattina sono andato dal medico a ritirare ricette, sono andato in banca, sono andato a pigliare le medicine, sono andato a fare la spesa, basta un minimo una mascherina che sia certo non di cartone, un paio di guanti, basta non toccarsi gli occhi e finita lì, non è ancora così drammatica la situazione, ragazzi. È quello che l'autocertificazione io ce l'ho, l'ho già fatta, perché mi sposto da Sassari ad Olbia, mi sposto da Olbia ad Alghero perché io lavoro, okay, quindi l'ho già fatta e devo continuare gli spostamenti facendola, però in questo momento, siccome abbiamo bloccato tutto, ok, perché c'è troppo contatto tra di noi siamo in 10 e siamo sempre uno attaccato all'altro, quindi abbiamo deciso di fermarci, quindi io sono fermo e non vado da nessuna parte, a prescindere dal fatto che non posso andare a casa di Gianni ha già delle patologie molto importanti, sta prendendo dei farmaci, sta seguendo la sua terapia, sta facendo determinate cose, basta un niente a farle prendere un'influenza, una cosa, ma stiamo scherzando, non si possono fare queste cose, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Se uno di voi ha 5 minuti liberi, o Marco o tu, andate e prendete la roba che c'è a casa di Gianni, te la porti da te Luca, ok, e la lasci lì, l'importante è togliergliela da lì, perché le stanno rompendo le balle, tutto qua, poi quel lavoro è 10 minuti farlo, perché il piantone è buono, ce l'ho io a casa, come passa questo cazzo di problema che c'è, ci mettiamo una mattinata e facciamo tutto quello che c'è da fare, capito Luca? Servono niente, i pali ce li ho io Luca, già lo sai che pali non ce ne mancano, mettiamo il palo direttamente attaccato con la morsettiera sua, già facciamo un bel lavoro, già lo sai io non sono un bucaccione per dei rigorsi, però dovete avere un attimo di pazienza, sì oggi sto seguendo dei cantieri che però purtroppo in questo momento abbiamo deciso di fermarci perché non fa, è troppo rischioso, a me mi hanno già fermato due volte, una da Olbia e una da Olbia, ho l'autocertificazione in macchina, le devo tenere appresso e sono già praticamente iscritto, perciò se faccio degli spostamenti non dichiarati il rischio ti sfio 300, 260 euro di contravvenzione, faccio, e tengo busciacca di là. Ho deciso di fermarmi, infatti stamattina sono uscito anche io dentro Sassari per fare delle commissioni normali, di routine, però non mi posso spostare da Sassari, tutto qua. Va bene, Marco, quindi mettetevi d'accordo, andate, portate via quella roba che c'è da Gianni, se ve la sentite, se no aspettano, io non posso farci niente. Sì, tranquilli, no, era più che altro per favorire Gianni, perché questi vicini stanno pensando ai pezzi dell'antenna, stanno preoccupando i pezzi dell'antenna e non si preoccupano magari di altro, no? E poi a Gianni non lo vediamo nemmeno, lui batte che mi dica, sale in terrazzo, magari bussa a tale condomino, fa tirare la chiave. E Gianni lo so che è meglio che, essendo convalescente, è meglio che stia riguardato, molto riguardato. Cappa. E tu, Lu, a mascherine come si è messo? C'è qualcosa di efficace, tipo fattore 3, di protezione 3? Hai dato un tipo di mascherina, io qua. Domanda, cosa ne vedi di che mascherini? No, ma cosa serve questa mascherina? Quando tu c'è il limite di sicurezza, cosa serve questa mascherina? Io ho fatto un sacco di commissione stamattina, la mascherina non era nessuno. Basta stare lontano dalla gente e non fare comunella dove c'è affollamento, tu stai distante. E cosa serve la mascherina? Mica sa se non ce n'è di niente. Di cosa si deve vedere? Perché questa mascherina? Cosa serve? Oggi, pure quando trovie già rimane 30 secondi lo fiago, la bucinanda. No, il mio fiago rimane molto di più. Oh, credo che ieri sera, oggi sulla nuova è uscito che hanno denunciato uno di un bar. E credo che forse quello al Corso Vittorio Emanuele, a sinistra me, il bar dei signori, sono passati io e Ivan ieri a fare un giro e c'erano proprio vigili urbani in quel bar. E c'era gente bevendo dentro. Adesso se li cordano forte, mi scusate il termine. No. Ma io mascherina non le uso, non le ho, non me la fotte nuda, io mi tengo a distanza di sicurezza, non frequento posti, ho deciso di autotutelarmi, cosa cazzo mascherino, già mi va la mascherina. Vabbè, forse tu lavorando al porto, genio, con tutta la gente che esce, che scende, che sale, che vedi, allora è meglio che la usci. Io non ho niente, io sto dentro il mio condominio, porto il cane giù nel mio condominio e me ne sto a casa. Ma giù cose di fame, ho avuto la gente attaccata al computer, facendo qui. Vabbè, comunque, Marco e Luca, mettetevi d'accordo. Ripeto, ribadisco, il piantone buono ce l'ho io. Quel piantone che è a casa di Gianni è da mettere a posto. Il resto dell'antenna è da portare a casa di Luca. Punto. Ok? Ehi, dai, ci mettiamo d'accordo. Comunque, anche se Luca non si fida, soprassediamo per il momento, dai. Soprassediamo. Tu devi vedere, comunque domenica, un bel di gente a Platamona, a Porto Torres, lo Scoglio Lungo, passeggiata, poi e bar lo stesso, tutti assiepati ai bar, domenica, tutti a tavolino in cerchio, per dire, io per sicurezza ho preso il tavolino che era vicino al cesso, quello più isolato di tutti, mi per pigliarmi un caffè. Allora io stamattina per fare commissione sono uscito alle 11:30 e sembravano le 2 di pomeriggio. 2 di pomeriggio, vedevi due cani passare di ritorno, 90% negozi chiusi, rimanevano aperte farmacie, banche la mattina e non so se tutte. Il bar ha aperto chi voleva aprire, chi non voleva aprire non ha aperto. Va bene. Signori, dai, devo ziraccare in cucina. A dopo, se ci siete, se non ci siete, ritenetevi salutati. Ciao Luca, Claudio e Eugenio. Ehi, Marco, dai, ci sentiamo, anch'io mi allontano dalla radio. Comunque, allora, aggiorniamoci al telefono. Sentite Gianni, magari si avvicina Marco, vi avvicinate, insomma. Portategliela via quella roba, io non mi sposto da casa adesso. Assolutamente, non manco se mi baghetti a peggio d'oro, ok? Una volta che il materiale è tutto al posto di combattimento, allora si vedrà vedrà da farsi. Ok, ciao a tutti, ci sentiamo. Giatti, giatti e piatti, ciao. È andato in cucina. Ehi, ehi, va bene, carino, ci sentiamo, comunque io vedo un po' se riesco a fare qualcosa con quel piantone che ho, ti chiamo e te lo passo, così ce l'hai già lì. Il resto andate da Gianni, l'importante a me mi fate avere l'altro piantone, perché quello lì era mettere a posto, devo riaprirlo, ovviamente ho messo il ribattino, devo aprirlo di nuovo, risaldare il filo e poi invece il ribattino ne metto un bulloncino passante dove c'è la resina, capito? E lì il problema non è l'aspirare. Dai, ci sentiamo dopo se coincide, ciao. Ciao genio, ciao. Bisogna essere un po' con i grandi sembra imbecille fare una cosa del genere. Lo so, già l'hai raccolto, infatti. Poi lui, avanti, mi sembrava aver sentito tanto lo diussi. Allora, quel becchi, chi era? Mi sembra tanto lo diussi a me. Ah, ok, va bene, allora. 9:10 sei qua. D'accordo. Avanti, posso dove? Gianluca. Tu, non mi attivo allora, dimmi, che sono rimbambito da un bel momento. Vabbè, Eugenio, scusa. Già, vabbè, il padre aveva beccato per l'autore, se poi deve essere in macchina, Antonello. Se vuole cambiare il nome, Eugenio. Non arrivi qua, quasi, troppo basso. Stiamo sistemando l'antenna, Giulio, aspetta un attimo. Ma chi si muove da qua? Tanto Moreno non ti puoi muovere. Sì, ti puoi muovere, fino un foglio. Io, un coso, ne ho. Cioè, 25 coppie di quei fogli per poter uscire da casa. No, deve fare solo un viaggio al tuo rientro subito. Se vai dove se puoi, devi anche portare lo scontrino, ti possono chiedere, lo sai, dopo uno o due giorni ti possono chiedere lo scontrino per verificare se effettivamente sei andato in negozio a comprare la panna spesa. Sì, già lo so. Beh, dopo la furbizia di quelli del nord, ho capito che sono andati tutti nelle seconde case in Sardegna. Non sono scemi, no? Vabbè. Ma no, non per quello, no. Fai appena gente furba, no. Per i furboni, quelli che si credono furbi. Ma non dire che sono deficienti, nel senso della parola. Ma comunque, mai si meglio. Guarda così, non mi guarda sulla mano così, che fa un giro lì. Guarda così, ci sentiamo. Vediamo se Antonello si è sistemato. Antonello, io si baracula. No, non ha sistemato niente. Cosa vuol dire abbandonare la apparecchiatura, Antonello? Poi vai a usarla, non funziona. E già lo so, l'ho fatto anche a me stasera. Ero quasi 7 mesi, 8 mesi che non usavo il baracchino. Il microfono stava già rompendo le balle stasera. Questo è anche il 2000, quindi figurati. Era tutto spento e quindi quando sono andato a accendere ho cominciato a guardare i numeri. Ok. Vabbè, può succedere, eh? E io ormai so come sto andando. Come sto andando io? Panvera. Ancora dimmi come sto andando io. Avarese. Stai andando bene, sei perfetto. Sono contento così. Gianni, dottor Lu, non ci sei oggi? E ti ha detto il sindaco di Polotones? Lui, con tutti vanno nelle seconde case, non hai capito? Così almeno lì nel nord se ne vengono qui a romperci le balle, se no non ci avevamo niente noi, hai capito? Tutti stanno venendo qui, tutti in Sardegna, almeno da qui quando fanno la zona rossa rimangono prigionieri in Sardegna fino a settembre prossimo. Problemi. Almeno spendono un po' di soldi. Alle 6 tutti i bar, 5, tutti serrati. Io le cose che mi hanno dato sono i supermercati, le fanno. E la plastica ci sono, in modo sembra di essere alle poste di una volta che c'era il vetro, vi mettete a voce per sapere cosa volevi. E cos'è quel casino? Ciucchi ciù. ricevete la sistema 90 è un altro mezzo, poi non lo so. Qui ce l'ho trovato questo sistema 90, ma c'è dentro fa poco. Come sta vizio? Eia, adesso sei 9:20. Quindi non abiti più da giù lassù. In alto e alto, adesso sei in basso. Ah, ehi, che cazzo. Ci ho capito. Se sei nella zona della piazza centrale, lì sei, vabbè, già sei di fronte a me, però sei in basso, io confronto. Poi devo abitare vicino ai carabinieri, anzi un po' più so che meglio. E se sei forse lì del costone, capito. Dove, aspetta, vicino alla fontana, sì. In pratica sei nel punto per andare dalle sole del Zizi, il primo bar, preso 3, mi va. Comunque, già capito. No, sei dove sei aperto? Forse ce l'hai tappato, ce l'hai più o meno. Pensavo che un pochino più in alto. Sì, arrivi in alto a lui. E vabbè, da lui riceve bene. Il problema è che trasmette male. Perché lui dentro un calorone, capito? In pratica. Non lo so, la verità non lo so. Ma perché ho pigliato un appartamento a coso, dove abitava Giovanna, dov'è? Finge un punto buono, vicino a De Martis. Nel caso tu non cambi casa che si dall'altezza la cosa è come dare la carbonata se sei vecchio camorra è tutta una fangosa ciao la GPC Gold GPC Gold ci cioè, avrebbe sarebbe in pratica la cos'è una quattro variani cos'è una Grand Prix dice si dico in Grand Prix no, è un casotto è un'altra grande che fine ha fatto potrei metterti quella. E la moto la seconda modello è così enfatica, la prima modello invece si può sformare come vuoi, ma la seconda modello quello che c'ha l'aggancio che è infinito da un filo all'altro, questo che il bloccaggio è un casino. Una cosa ti dovrei piazzare, una bella 27 L, costa anche poco, 5 ottavi lo stesso, comunque lo c'avevo io, 5 ottavi, la Energy. Che funziona bene sì, c'è anche il nuovo guadagno quella, però non puoi attaccare i 1500 watt, il discorso è quello. Sì, vabbè, ma anche in massa lo sai, quando fa un vento, il coso crea problemi, capito? Potrebbe anche fischiare. Io l'ho provata la Game Master, cioè Game Master, una specie di Game Master si chiama. Da piano terra arrivavo fino al tetto. Figurati, usciva bene però. Era brutta da vedersi questa cosa verde. E vabbè, quella che mi aveva pensato a me era con un verde, no? Una canna pesca verde di colore, ma verde fosforescente era me. E già lo so, ma stiamo a dire che va bene anche la Gran Prima, le basi non disturbi. E io dopo ciao. Anfredo. Disturba la TV. Il cazzo. E che amplificatore c'hai andrà in casa tua? E dove sono sedi sopra il tetto e sistemati andrà la TV. Ti compri un coso. Un amplificatore filtrato. E beh, ce lo credo, cazzo. La Gran se c'è radiali che sono vicini all'antenna, si massacra. E allora, o c'è l'amplificatore musulmane, o il miscelatore. E io ciao Antone, alla prossima, se mi bene. Attenzione 10, c'è qualcosa?